di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E doveva essere una di quelle giornate da bollino rosso per coloro che sono attaccati alla tradizione, come dire, doveva essere questo 31 luglio una giornata in cui era difficile viaggiare. Invece no, quest'anno tutto cambia, attenzione, perché nei primi 15 giorni di luglio il calo medio di presenze negli alberghi italiani è stato del 20%, ma addirittura questo calo è stato accentuato, secondo il sindacato dei balneari, nelle spiagge. Quindi mancheranno all'appello tra i 900 e i 950 milioni di euro per quel che riguarda il turismo tradizionale. Arriva però una proposta con il sostegno finanziario della regione, almeno così dovrebbe essere realizzata dall'Abruzzo. Cioè, bisognerebbe proporre ai turisti un biglietto a prezzo simbolico, anche solo di un euro, per muoversi liberamente su tutto il territorio regionale, così che nelle giornate di pioggia, complice la crisi, complice il meteo, quest'anno tutto ha contribuito al calo della voce delle attività connesse al turismo, si possa trovare una strada alternativa. Qual è il problema però di mentalità? Cioè, gli italiani di viaggiare all'interno dell'Italia, a parte le classiche mete delle città d'arte più note o delle stazioni balneare o sciistiche, non hanno proprio voglia. Quanti da Lecco, per esempio, sono mai partiti di domenica per visitare Brescia o Mantova o Bergamo? Questo è quello di cui ci occuperemo dalle 9, però, per capire cos'è che ha fatto sviluppare questa allergia al proprio territorio a noi italiani. 800 24 00 24. Ieri, come sapete, abbiamo affrontato il tema dei bambini sottratti alle famiglie con eccessiva disinvoltura per ragioni e lacune economiche della famiglia e non, come dovrebbe essere, solo in quei casi in cui il minore è a rischio, e così il suo benessere, perché è a rischio violenza, per esempio. In realtà, quando scatta la segnalazione ai servizi sociali e parte la macchina della giustizia, a volte si arriva all'allontanamento da famiglie più che degne, che avrebbero bisogno di un aiuto di natura sociale, economico, logistico e di casa. E sono moltissimi i casi, perché parliamo di moltissimi, perché utilizziamo questi aggettivi un po' generici, perché manca in Italia ancora un'anagrafe precisa di questi circa, sono stimati 35.000 casi di minori affidati a case famiglia, manca un'anagrafe, di conseguenza anche delle motivazioni che li hanno portati lì. Questo è un tema che ha suscitato diverse reazioni, perché molti ieri ci hanno contattato per condividere esperienze, analisi, osservazioni, e sarà un tema dunque sul quale torneremo. Continuate a scriverci a spunti di vista @radio24.it. Andiamo ora a conoscere quelli che ci osservano, che ci guardano da lontano, pur essendo in Italia, i corrispondenti stranieri. Visti da fuori. Il mio buongiorno oggi va a Tesi Knes Bastaroli. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Tesi, innanzitutto tu sei austriaca, per quali testate scrivi? Io scrivo per una testata austriaca che si chiama Der Standard, che è un quotidiano, ma scrivo principalmente dell'economia, anche un po' di politica, un po' di uso in Italia, ma il focus è sull'economia. E dopo scrivo su un quotidiano finanziario in Germania che si chiama Börsenzeitung. Börsenzeitung, e dove si trova? Francoforte, mi sembra. Si trova a Francoforte e si occupa principalmente della finanza, e naturalmente anche della finanza italiana, ma anche un po' di macroeconomia. Quali sono gli ultimi temi che hai trattato, Tesi? Gli ultimi temi, che erano Fiat naturalmente, cioè non sono solo i risultati che sono stati pubblicati ieri e la fusione che sarà deciso domani, ma specialmente queste voci che dicono che Volkswagen oppure Peugeot vogliono partecipare o prendere

Ora ci chiediamo, cosa funziona? Qualcuno dice il proibizionismo totale su qualunque elemento o sostanza, a qualunque cosa lo si applichi, non fa altro che ingenerare il risultato opposto rispetto a quello che si era prefisso, cioè rendere più attraente ciò che ha vietato. E dagli Stati Uniti arriva questa proposta shock, la commentiamo e ce la racconta nel dettaglio Mario Platero. Buongiorno, benvenuto Mario. Eccoci, buongiorno Irene. Buongiorno, grazie per il sacrificio, so che sei ancora in jet lag. No, ma figurati, siamo qui, eccoci. Il New York Times ha parlato di un divieto, era un'epoca buia del proibizionismo, ha lanciato un appello questo prestigioso quotidiano. Perché? Cos'è questa virata verso l'antiproibizionismo totale sulla marijuana? Guarda, come lo interpreti? La questione della marijuana, come tu dicevi, è oggetto di dibattito da tempo negli Stati Uniti, ma la liberalizzazione non è una novità, nel senso che ci sono degli stati che hanno già introdotto la liberalizzazione della marijuana, per esempio in California, ma per esempio in Colorado. E allora New York, che vuole sempre essere anche lei un po' all'avanguardia, per New York in realtà intendo non solo New York City, che è il simbolo di New York, ma lo Stato, cerca di inseguire. E la vicenda parte da lontano, parte dal governatore Andrew Cuomo, il quale ha ambizioni, diciamolo, anche presidenziali, vuole diventare così il simbolo liberal degli Stati Uniti per poter un giorno correre per la Casa Bianca. Allora la sua proposta iniziale è quella di dire cominciamo a lavorare per la liberalizzazione. Il New York Times è saltato sul suo carro, tra virgolette, e quindi sostiene la sua posizione. Come tu hai detto giustamente, non soltanto per fini medici, per tranquillizzarsi, per star meglio, eccetera, eccetera, ma per fini ricreativi. La tesi qual è? Beh, quello che dicevi te, il proibizionismo alla fine non serve, molto meglio avere una distribuzione controllata della droga, della marijuana, diciamo, quindi una droga molto leggera. Con questa distribuzione poi si potrà controllare per esempio il pagamento delle tasse, si potrà evitare il crimine organizzato. In sostanza ci sono una serie di tesi che aiutano questa proposta. Ci sono quindi però... le leve sono sostanzialmente l'abbattimento degli introiti per il crimine organizzato, gli effetti positivi sul fatto che si rende meno attraente una sostanza proibita, e ho letto anche lo svuotamento delle carceri. Sono 635.000, mi sembra, i detenuti per possesso di droghe leggere negli Stati Uniti. Sì, ci sono poi delle leggi, devo dire, penalizzanti in alcuni stati e molto ingiuste, per cui alla terza, quando sei beccato, diciamo così, per la terza volta con un consumo di droga, ma di droga leggera, voglio dire, rischi di andare per 30 anni in prigione. E ci sono dei casi veramente assurdi, e dunque ci sono come dappertutto i pro e i contro, ma ti raccontavo che ci sono degli stati dove la marijuana è stata liberalizzata, per esempio il Colorado. E allora mi ricordo che una collega, una giornalista che conosco da tempo, si chiama Maureen Dowd del New York Times proprio, e in fondo è stata un po' anche la sua campagna che ha scatenato, se vuoi, il quotidiano, è andata in Colorado, è andata a Denver a fumare per capire come funzionava la liberalizzazione del fumo, tra virgolette. E mi ricordo che mi disse, per caso ci sentivamo via email, e mi disse sono a Denver, ed era un periodo strano per essere a Denver, perché tu più che essere in città a gennaio, febbraio preferivi essere in montagna, no? Invece era proprio in città, e mi dice to get high. Adesso c'è il doppio senso, perché to get high vuol dire appunto per fumare, per sballarsi un po', sì. Per sballarsi un po', però può anche essere per essere in montagna, per andare molto in alto, no? E quindi non spiegava esattamente la differenza. Poi la cosa l'ho vista sul giornale quando ha raccontato in un articolo che ha fatto scandalo, che ha coinvolto l'opinione pubblica americana, di essere andata in un negozio che aveva aperto da poco e che vendeva dei prodotti fatti con marijuana. E dice: io l'ho comprato, e il problema è stato che sono stata malissimo. Credevo di morire, è stata veramente una cosa per me difficilissima, gravissima, quindi attenzione, perché la liberalizzazione della droga, ma sì, va bene, forse pensiamoci, però può avere degli effetti controproducenti, come è successo nel mio caso. Beh, puoi immaginare, siccome lei è considerata un po' libera, è considerata una di quelle aperte, immagino, una aperte, sì, certo, eccetera, eccetera, e si è scatenato un dibattito su internet e sulla rete senza fine, capisci? Senza sì, fine. Sì, infatti se ne parla moltissimo ed è incredibile che gli Stati Uniti, 37 degli Stati Uniti hanno già liberalizzato in qualche forma o decriminalizzato l'uso di marijuana. Gli Stati Uniti, dove, lo ricordiamo bene, fumare non è considerato, io adesso parlo di fumo di sigarette, dove addirittura esistono non solo dei parchi, dei condomini interi in cui è vietato fumare sigarette anche in casa propria, e noi da qua osserviamo questa virata antiproibizionista addirittura sulle droghe leggere. Ma è veramente un panorama che cambia, o il tentativo, come dici tu, Platero, semplicemente di guadagnare qualche voto in campo liberal? Credo che sia un panorama che sta cambiando. L'America è da sempre un po' all'avanguardia di quelle che sono le innovazioni, sui diritti civili, tra virgolette. Dunque, credo che sia qualcosa che sta cambiando. Attenzione, perché se alcune cose sono cambiate in moltissimi stati, la questione della liberalizzazione totale per ora è davvero una decisione d'avanguardia. Nuova. Liberalizzazione totale vuol dire che si va in negozi specializzati che sono aperti, dove tu entri e che compri non solo un pacchetto di marijuana, ma anche dei biscotti, anche delle infusioni e così via, così via. Ed è proprio sull'infusione, mi sembra di ricordare, che sia caduta proprio la povera Maureen Dowd. Sull'infusione, ora, prima di entrare in questi tecnicismi, è chiaro che è comunque una virata da segnalare. Gli Stati Uniti poi fanno i conti anche con la lezione che hanno imparato dal proibizionismo. Questa legge che ha portato al divieto di sostanze leggere è addirittura stata definita dal New York Times una legge che ha una matrice razzista, che è stata approvata in un'atmosfera di isteria nel 1930 perché ha associato l'utilizzo di droghe leggere a persone dalla pelle bruna come i messicani o come i neri. Ci sono quindi anche questo strapparsi le vesti rispetto al proprio razzismo culturale dalle testate di questo quotidiano. Direi che forse questo è eccessivo. Poi il New York Times è un bellissimo e grandissimo giornale, ci sono stati a suo tempo ovviamente delle ragioni anche a sfondo razzista, ma se dobbiamo risalire all'era del proibizionismo, perché il proibizionismo poi ci fu dal 1920 al 1933 e riguardava l'alcol, ecco, quello fu un momento oscuro nella storia delle libertà civili americane, perché col proibizionismo si era deciso di impedire che ci fosse una distribuzione di alcol totale, non si poteva bere alcol nei locali pubblici. E dunque cosa è successo? Che, come sempre capita, necessità aguzza l'ingegno, e quindi sono nati dei bar segreti dove si andava e dove si poteva bere, perché, insomma, la gente un bicchiere di vino, per non dire un bicchiere di whisky, o di vodka, poi se lo vuole concedere. E ci sono ancora dei posti che hanno radice, figurati, negli anni 20, negli anni 30, per esempio il Club 21, mi viene in mente, che è un ristorante di grande storia, uno dei migliori ristoranti a New York, di grande tradizione, ha in cantina una porta segreta che tuttora esiste, e si passa da questa porticina e si entra in una grande cava dove c'è il resto di quello che era uno speakeasy. Uno speakeasy vuol dire dove erano questi posti dove si andava a bere segretamente, e adesso è una sala molto chic del ristorante dove si organizzano delle cene private. Speakeasy, tra l'altro, tanto per chiudere, un termine che è restato nel gergo americano con mille diversi significati. Proprio poco tempo fa è nato una specie di festival letterario che si chiama Speakeasy, perché c'è questo doppio senso. Speakeasy vuol dire anche parlare facilmente, ma era il nome che era stato attribuito a questi bar segreti e illegali, ed è stato istituito proprio in un bar dove vanno dei giovani scrittori e declamano i loro versi, declamano le loro storie, e questo è una... E parlano in maniera più facile, agevolati anche. In maniera più facile per agevolare. Ecco, agevolati questo, anche dall'utilizzo di sostanze. Per confermare quello che dicevi te, che alla fine il proibizionismo non serve. Meglio averlo controllato, e forse da questo punto di vista sono allineato con il New York Times. E sei allineato anche a sorpresa con Umberto Veronesi, cioè la decisione per esempio del presidente dell'Uruguay di legalizzare la marijuana, è un piccolo paese l'Uruguay, ha 3,5 milioni di abitanti, ha portato però quel paese al centro del dibattito internazionale e, dice Veronesi, all'avanguardia nella lotta alla criminalità collegata in tutto il mondo alla droga. Si pensi che la mafia incassa per droga, si sono sempre cifre stimate, circa 60 miliardi di euro ogni anno solo in Italia. Bisogna fare un distinguo, dice Veronesi, tra droghe pesanti e leggere, ma attenzione, il proibizionismo non serve, questo vale per droghe leggere, per fumo, per alcol. Voi come la pensate? Ora daremo la parola ai nostri ascoltatori. Intanto Mario Platero, grazie naturalmente. Grazie a te. A grazie presto. Per questa testimonianza. Mario Platero, che è una delle voci di Radio 24 con la sua rubrica Radio America 24, ed è corrispondente naturalmente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, cioè il 6% del PIL. Dunque, i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali è determinato però dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri. Perché? Perché noi non viaggiamo tanto, tranne che per raggiungere la spiaggia, nelle località italiane? Questo è il tema che affronteremo dalle 9, ma già ci stanno arrivando i vostri sms che dicono che il problema principale sono i costi, cioè l'Italia, utilizza questo termine un ascoltatore, ma gli fanno eco molti, al 349, questo per l'SMS, 238-6666, in Italia gli addetti ad alberghi e spiagge ti pelano. È solo questo, dunque? Dovremmo abbassare i prezzi, dovremmo stare più attenti a rendere attrattive le nostre località, le nostre città, con una politica più oculata? Per le vostre opinioni su questo tema del 31 luglio, 800 24 00 24 potete cominciare a prenotare le vostre telefonate. Ora però stiamo parlando di proibizionismo. Funziona? Non funziona? È meglio essere molto duri? Le nostre prigioni, ci ricorda Umberto Veronesi in un articolo dell'Unità. Le nostre prigioni sono piene di piccoli spacciatori, che sono in genere anche tossicodipendenti. E bisogna rendersi conto, dice lui, che i ragazzi e le ragazze che cadono nella tossicodipendenza non hanno che tre scelte: rubare, prostituirsi o spacciare. Così molti piccoli consumatori diventano piccoli spacciatori, e poiché ogni nuovo cliente, racconta questo meccanismo, viene gratificato dall'organizzazione con una dose premio, gli stessi consumatori creano dei proseliti, e questo è un circolo vizioso che crea un mercato enorme, secondo lui, che però ci ricorda, io sono padre e come padre e come medico sono naturalmente contrario a tutte le sostanze, eppure dico, il proibizionismo non funziona, anzi sortisce l'effetto opposto. Fate attenzione. Negli Stati Uniti abbiamo segnalato il dietro front da parte di un paese, almeno sta imboccando quella strada, tra i più severi in queste materie. Voi come la pensate? Sentiamo Giovanni da Bologna. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io avevo chiamato appunto per questo, per intervenire un secondo su questo discorso del proibizionismo. Certo. Perché comunque ormai nel 2014 continuare a non usare il buon senso, ecco, mettiamola così, perché non è che voglio entrare se uno è di destra, se uno è di sinistra, per carità di Dio, però ormai lo sanno anche i sassi che quali sono i business principali delle mafie. Il primo è il traffico della droga, il secondo la prostituzione, il terzo le armi. Adesso il discorso delle lo sanno anche i sassi, dice. Esatto. Le slot adesso machine, non dimentichiamolo, il gioco, esatto, d'azzardo legalizzato. Sono stati legalizzati, quindi un attimino di contrasto c'è stato fatto. Quindi cioè, adesso con questa crisi sarà meglio lasciare, innanzitutto sarebbe tassato, regolamentato, io legalizzerei tutto, prostituzione, anche le droghe pesanti, perché comunque l'eroina è molto meglio che lo Stato te la dà lui e non lo spacciatore per strada che magari ti manda in overdose. Infatti in Svizzera, dove era stata usata questa formula, che le farmacie potevano dare l'eroina se tu arrivavi, non che dicevi oggi sono triste e mi voglio sballare, cioè dovevi dimostrare di essere già tossicodipendente con delle crisi di astinenza. Insomma, secondo lei quell'esperimento ha funzionato? Ha funzionato perché hai dimezzato nel controllo, hai levato di 10 volte gli scippi, perché il tossico che sta male scippa, spacca il vetro e ruba l'autoradio, quindi la microdelinquenza, che poi è quella che riempie le carceri, perché parliamo di chiaro. Prima le galere erano piene di Giovanni, carceri. grazie naturalmente per questa importantissima testimonianza e opinione, ma vogliamo far parlare anche altri. Gianluca, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora, Gianluca da Milano. Sì, dica. No, volevo dire una cosa, prima quando parlava col giornalista avete detto una cosa Mario Platero. Non esatta. Ci corregga. Ci mancherebbe. E nel 1930, quando c'era il proibizionismo in America, il motivo per cui è stato accentuato e comunque voluto il proibizionismo era il fatto che, ahimè, Henry Ford la prima macchina la fece andare a olio di canapa, a distillato di canapa, e in Texas si erano accorti che bastava che facevano un buco e trovavano il petrolio, diceva attenzione, dobbiamo usare il petrolio per le macchine, e quindi hanno pagato Hollywood per fare dei film che dicessero che chi fumava canapa e faceva degli omicidi efferati, così la popolazione è un riferimento storico molto interessante il suo. Infatti si coltivava la canapa per quegli scopi e non era vietata fino al 1930. Adesso lei fa il collegamento allo stimolo protezionista verso l'industria di Stato, cioè il petrolio, ma in effetti c'è stata una campagna proprio dello Stato che associava di colpo, dopo aver coltivato canapa per anni, che associava la canapa a comportamenti criminali e addirittura omicidi. Grazie per questa rettifica. Siamo partiti anche da una situazione opposta, parlando di sigarette, che sono percepite come meno pericolose rispetto alle droghe leggere. Dall'Inghilterra arriva un'altra proposta shock, cioè si dice coloro che sono nati dopo il 2000 devono vedere le sigarette solo in mano agli adulti o nei film, cioè non devono avere la possibilità di toccarle mai. Lo dice il British Medical Association, che ha lanciato la proposta. Bisogna creare la prima generazione di non fumatori, una sorta di esperimento quasi di ingegneria genetica dal vivo. Caterina Soffici, buongiorno e benvenuta. Pronto? Buongiorno. Abbiamo disturbato Caterina Soffici perché in Inghilterra vive tra l'Italia e Londra, è una giornalista, è autrice di Italia Yes, Italia No. Cosa capisci dal nostro paese quando vai a vivere a Londra? Questo titolo molto intrigante. Ma vorremmo chiederti non tanto di come tu percepisci l'Italia da Londra, ma di cosa sta succedendo in Inghilterra, perché questa proposta, quanto se ne è parlato? Abbiamo visto pezzi sulla BBC, abbiamo visto persone spaccarsi tra pro e contro. Perché questo divieto di fumo, inteso come sigaretta in questo caso, dobbiamo specificarlo, da dove è venuta questa campagna, se vogliamo, moralista di colpo? Allora, guarda, questa cosa nasce dalla British Medical Association, come dici te, che è l'associazione dei medici britannici, quindi una cosa molto di alto livello e molto ufficiale, per cui si pensa che fare un bando per i nati dal 2000 in poi, proprio proibirgli di comprare le sigarette, nel senso che loro non possono entrare in un negozio e comprare le sigarette, neanche quando arriveranno a 30 anni. 18 anni. Certo, cioè la prima generazione, naturalmente bisogna vedere se passa una cosa di questo genere, ma dovrebbe essere in teoria, se funzionasse questa sorta di utopia del controllo dei comportamenti, la prima generazione che vede le sigarette solo nelle mani altrui. Quanto può funzionare una cosa così? Allora, questa cosa, diciamo, è molto, come si capisce, molto dibattuta, perché è una cosa abbastanza drastica, e poi questa proposta prevede che via via si innalza il limite, quindi ora si parte dal 2000, poi via via ogni anno i nati nel 2001, i nati nel 2002, eccetera, eccetera, in modo da creare proprio una nuova generazione di gente che non può avvicinarsi alla sigaretta. Io posso dire è abbastanza può lasciare abbastanza perplessi questa ma prima di tutto come può funzionare, scusa, cioè appunto, ovviamente basta chiedere le sigarette a un fratello più grande, a un amico, per quanto si chieda l'ID, e anzi poi si potrebbe sviluppare una sorta di mercato nero che io ti do le sigarette sotto banco, che mi paghi un po' di più, eccetera. È anche vero che in Inghilterra sono state fatte tutte le politiche che sono state fatte contro il fumo, che poi sono arrivate tutte, anche noi le abbiamo recepite, ma sono arrivate tutte dal mondo anglosassone, alla fine hanno servito, perché il discorso è un po' diverso rispetto al discorso sulla marijuana. Mentre io sottoscrivo assolutamente appieno quanto diceva Platero e quanto diceva la cosa che avete letto di Veronesi, eccetera, il fumo in pratica è una cosa legalizzata, quindi è una droga in cui non c'è lo spacciatore, te non elimini una criminalità, il problema è combattere contro le grandi lobby, contro le lobby del tabacco e contro lo Stato che ci mette sopra le sue tasse, eccetera. In Inghilterra, e contro i danni che produce sulla salute, questo va ricordato, poi che fumiamo o meno, noi che una certa età l'abbiamo già, e per prevenire che i ragazzi comincino, questa è la formula. Tu dici che ha funzionato? Ha funzionato. In Inghilterra un pacchetto di sigarette costa 10 sterline, cioè 10 sterline sono 12 euro più o meno, quindi è già questo è un grosso deterrente per un ragazzino, perché 12 euro per un pacchetto di sigarette, veramente fai prima andare a prenderti un po' di marijuana, credo che costi, alla fine la trovi più facilmente, e se è una cosa conviviale, diciamo così, è molto più divertente quello del fatto di fumare una sigaretta. I ragazzi secondo me hanno capito un'altra cosa, è diventato un po' uno stigma sociale, no? Il fumo è sempre associato a, lo vedi anche nei film, lo vedi nelle nuove serie TV, lo vedi anche nei fumare programmi. Non è più cool, insomma, ci non stai è dicendo cool, non è cool, il fumo è associato alle classi più basse, al lavoratore, all'immigrato, no? C'è una cosa anche molto razzista. L'Inghilterra è un paese molto classista in questo, no? Per cui ormai non c'è. Io devo ancora trovare un paese che non lo sia, ma a parte questo. no, ma lì proprio ci sono proprio le classi, che poi puoi stratificare la società inglese proprio in 7 classi sociali che loro individuano a seconda dei vari parametri, sono un po' così, gli inglesi sono così. Ma a parte questo, ti fermo un attimo, Caterina, sei un fiume in piena, c'è una cosa in comune comunque in molti paesi. 10 milioni di fumatori, per esempio in Italia, il 13% inizia prima dei 15 anni. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Sono le 9-8 minuti, stiamo ancora parlando di proibizionismo, funziona oppure sortisce effetti peggiori del male che vorrebbe curare? Questo è quello che ci stiamo chiedendo. 349-238-6666 per i vostri sms. C'è chi ci segnala naturalmente che la liberalizzazione non necessariamente ti fa smettere di fumare. C'è chi scrive: attenzione, cerchiamo di vietare anche gli alcolici e i cibi grassi prima di pensare alla sigaretta. E questo è qualcosa che è un elemento che è stato sollevato nel dibattito anche in Inghilterra. Ci andremo tra pochissimo con la corrispondente Caterina Soffici, giornalista del Sole 24 Ore. Prima però le vostre opinioni, il numero di telefono 800 24 00 24. Buongiorno Francesco. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, dica. Okay. Io sono profondamente contrario alla liberalizzazione, perché alla fine, che sia fumo di sigaretta o quello che si vuole, che sia una droga o alcol, dopo i danni creati da questi prodotti se li deve assorbire la sanità pubblica per curare. Quindi sì, no, lo sentiamo. Quindi lei dice: se facciamo sì che le persone danneggino la propria salute, poi noi come comunità dobbiamo pagare. Questa è una tesi diffusa nei paesi anglosassoni, per cui attenzione anche quando per esempio ci si trova di fronte a scelte drammatiche come a chi dare un organo, ci si chiede proprio come comunità se questo individuo o un altro individuo ne faranno un migliore uso, nel senso torneranno a bere nel caso di fegato, o avranno un lifestyle che garantisca la loro salute negli anni a venire. È difficile, eh? Cioè, io credo che sia un'attività e una valutazione molto, molto difficile da fare rispetto a quello che succederà nel futuro anche dei nostri ragazzi. Francesco, grazie per questa sottolineatura. Quindi attenzione alla liberalizzazione, perché poi come comunità dovremo pagare i costi dell'intervento della sanità sugli individui malati, ma questo vale anche per il cibo, per i cibi grassi, per l'eccesso di stress forse. Roberta Pacifici, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E lei lavora all'Istituto Superiore di Sanità ed è direttrice dell'Osservatorio su fumo, alcol e droga. Secondo lei cosa funziona in termini di proibizionismo? Cioè, quali sono le misure che possono indurre a un comportamento, tra virgolette, se vogliamo definirlo così, virtuoso o almeno non costoso, come segnalava un ascoltatore, per la comunità? Ma intanto, se ci rifacciamo a questa proposta di divieto di acquisto dei prodotti del tabacco, direi che è essenzialmente una proposta di difficile attuazione, anche penso di facile aggiramento. Però la ritengo interessante come provocazione per riflettere su quali sono le misure che si possono adottare efficacemente. Ma intanto mi sembra che è già stato ricordato una misura che è stata dimostrata molto efficace, è l'aumento molto importante e sensibile del prezzo dei prodotti del tabacco, che chiaramente ha una disincentivazione soprattutto nei giovani e giovanissimi. Poi però bisogna anche agire su chi ha già iniziato a fumare e purtroppo è stato catturato dalla dipendenza che questi prodotti provocano, e allora bisogna aiutare, incentivare le persone a rivolgersi ai centri specializzati, che in Italia i centri antifumo sono quasi 400, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e lì operano dei professionisti che sono in grado di aiutare in maniera molto professionale, e anche ed efficace le persone che vogliono smettere di fumare. Lasci sintetizzare, dottoressa Pacifici, quindi secondo lei il proibizionismo totale, la proposta dei suoi colleghi, dei medici della British Medical Association inglese, non funziona anche perché è di difficile realizzazione, no al divieto assoluto per generazioni intere, però sì al disincentivo, uno economico, cioè aumentare il prezzo delle sigarette così che diventa quasi un prodotto di lusso, dice lei, non 10 centesimi a pacchetto, chiaramente un aumento consistente, certo. E rendere i centri di fumo e il ruolo dei medici che lavorano in questi centri di fumo più accessibili, più capillari, diffusi sul territorio, perché questo funziona. Sì, è questo. E poi vegliare moltissimo sulla pubblicità indiretta di questi prodotti, perché la presenza della sigaretta è molto molto invasiva su film, fiction, sia televisive che sui circuiti cinematografici, e questo ha un impatto dimostrato scientificamente molto importante soprattutto sui giovani. Nell'immaginario, ma com'è il trend in Italia? Ora, francamente, al di là sembra che si fumi molto meno rispetto a 10 anni fa. Certamente abbiamo avuto un trend importante in discesa per gli uomini, per i fumatori dagli anni 60 ad oggi, ma è stato equiparato dall'aumento invece delle fumatrici, che sono diventate molto di più, tanto che oggi abbiamo quasi una parità di fumatori e di fumatrici, e soprattutto negli ultimi 7 anni abbiamo una situazione assolutamente di stallo, con piccole modifiche ogni anno che registriamo, di piccoli aumenti o piccole diminuzioni, ma che non spostano lo zoccolo duro dei fumatori, che è intorno al 22% della popolazione, e quindi direi una massa oltre quasi 12 milioni di persone, che è veramente importante. Grazie per questa osservazione, Roberta Pacifici. Caterina Soffici, e dunque si parla di divieto assoluto di fumo per i nati dopo il 2000 in Inghilterra, ma è proprio quello il problema dei ragazzini inglesi? No, il problema vero in Inghilterra è l'alcol, è l'alcolismo, che è proprio una piaga diffusa fin dall'età preadolescenziale, perché cominciano a bere anche se il divieto, ecco, questo è proprio l'esempio tipico dove il proibizionismo non funziona. E cominciano a bere. Quali sono le leggi sul legal age in Inghilterra? Legal age è 18 anni non puoi comprare, 21 anni addirittura ci sono dei locali che sono vietati all'ingresso ai ragazzi fino a 21 anni. Questo cosa porta? Che i più grandi comprano l'alcol e le portano alle feste dove ci sono i ragazzi più piccoli, ha una specie di commercio di false carte d'identità o documenti d'identità, perché se anche a Londra non è, o comunque in Inghilterra, circolare con un documento di identità non è obbligatorio come in Italia, per entrare in certi posti o per comprare sigarette, per comprare alcol, ti viene richiesto come in tutti i paesi anglosassoni. Se dimostri effettivamente a guardarti meno di 25 anni ti chiederò, chiedere, e non deve essere considerato un'offesa, anche se sei uno un'offesa, anzi capitasse a volte ti chiedessero un'offesa. No, adesso scherzi a parte, in tutti i paesi anglosassoni c'è questo commercio molto massiccio di si beve moltissimo, ma anche di falsi documenti tra i ragazzini, e si beve moltissimo. E quindi e poi bevono tantissimo e a dei livelli proprio patologici, e questo è uno dei grandi temi, più del fumo in verità, perché fa parte proprio della cultura anglosassone della socialità. Si va al pub perché è il luogo dove ci si incontra, molto spesso, siccome qui anche c'è un patto sociale, le scuole sono maschili e femminili, quindi i ragazzi generalmente arrivano, non sono attrezzati a approcciare anche l'altro sesso, e quindi hanno bisogno di l'alcol, esatto, è considerato un aiuto, quindi bevono per essere un pochino brillanti, per poter parlare con una ragazza, e lo stesso delle ragazze, chiaro. Grazie più, Caterina, ecco, per avere naturalmente evidenziato anche questo enorme problema sociale. Ce lo dicono anche i nostri ascoltatori: la sigaretta non ha mai ucciso nessuno, di alcol invece non solo si muore, ma è al centro di gravose situazioni che poi tante volte approdano in tribunale, se non peggio, arrivano anche alla morte, in quanto induce aggressività. Il problema dell'alcol più del fumo è sottolineato da tutti i vostri interventi. Io voglio concludere con un'osservazione di Umberto Veronesi, sempre tratta dall'articolo che citavamo all'inizio, e davvero pensiamo che penalizzando il possesso possiamo interrompere una spirale di angoscia esistenziale, dice Umberto Veronesi parlando come medico e come padre. Io spero che la decisione dell'Uruguay riapre al dibattito sulle droghe, aiutandoci a superare visioni rigide e posizioni ideologiche. Ricorda poi che il 50% dei ragazzi fa uso di sostanze stupefacenti tipo droghe leggere. Ce la sentiamo davvero di dire che il 50% dei nostri giovani sono dei criminali? Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente. Certo, noi l'ascolteremo tutta. Viaggio e miraggi di De Gregori ci porta al tema di questo ultimo segmento di trasmissione. Vi abbiamo chiesto: ma perché noi italiani non viaggiamo da provincia a provincia, anche se c'è chi tra di voi ci segnala: attenzione, io ho 50 anni, non ho ancora smesso di esplorare la mia regione, e vive in Toscana. Lo salutiamo, questo ascoltatore. Voi cosa fate? 349-238-6666. Ve la sentireste mai di andare in esplorazione invece che nelle solite capitali, destinazioni del turismo nazionale e internazionale, da Venezia a Roma, a Firenze, a Napoli? Esplorare, perché no, una città di provincia. L'avete mai fatto? Intanto saluto Giorgio Palmucci, che si è unito a noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Giorgio Palmucci è il presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Come definirebbe questa stagione? Un voto? Ma guardi, da un punto di vista climatico intorno a 3, per il resto siamo comunque ottimisti e riteniamo che sicuramente il mese di agosto e i mesi successivi il clima sarà più favorevole, quindi ci favorirà dopo un mese veramente fuori dall'ordinario. E sembra però, adesso al di là del clima che è diventato il nemico numero uno di voi albergatori, sappiamo anche delle cause intentate ai meteorologi e non vogliamo entrare in questo merito perché l'abbiamo affrontato, è stato affrontato in trasmissioni precedenti, e c'è anche la crisi, però la gente ha meno soldi in tasca, tant'è che un italiano su 5 ormai o non va in vacanza o fa questi weekend allungati, come si chiamano, per risparmiare, e si scelgono destinazioni più vicine, più economiche. Ci segnalano gli ascoltatori il fatto che in Italia la vacanza costa troppo, per quello preferiscono andare all'estero. Cosa risponde? Ma guardi, io ritengo che sicuramente la crisi che ha colpito il nostro paese, non soltanto il nostro paese, l'Europa, ha sicuramente ridotto quelli che sono il potere d'acquisto e i denari a disposizione dei nostri concittadini. Quello che io penso è che ad ogni modo l'italiano non debba rinunciare a dei momenti di svago e di riposo scoprendo quello che è il nostro paese, i nostri territori, le nostre bellezze. Sicuramente si ridurranno e continuano a ridursi quella che è la durata media di questi soggiorni, però di questi viaggi, però come diceva lei all'inizio, l'importanza della scoperta del nostro paese ci permette di dire che abbiamo tutta una vita per scoprirla e non riusciremo di sicuro a vedere tutto quello che è possibile vedere, è possibile visitare, è possibile gustare. No, io semplicemente quello che notavo rispetto alla mentalità degli stranieri che invece si imbarcano nel weekend alla scoperta anche di città anonime del proprio territorio, si usa molto, e non vi troveranno certo nel Colosseo, nella Fontana di Trevi, né Venezia, però vanno così a passare 2 giorni in un'altra città. Noi questa mentalità non l'abbiamo, non fa parte del nostro DNA, questo sottolineavo Palmucci, e comunque per numero di presenze di italiani e stranieri per regione, secondo l'Osservatorio Nazionale del Turismo e dell'Istat, il Veneto e Venezia rimane in cima alla classifica. Segue la Toscana e poi abbiamo come città singole Roma. Quindi vediamo che comunque ad attrarre inevitabilmente sono quelle grandi consuete mete, però ci si aspettava da noi italiani una conoscenza un po' più capillare, un po' più diversificata del territorio. Spesso invece a segnalarci le bellezze di quello che si trova in Italia sono gli stranieri. Non so se le è mai capitato, Palmucci. Sì, assolutamente, concordo pienamente con lei. Il problema è che intanto il concetto di vacanza, specialmente quando si parla del concetto di vacanza estiva, è ancora molto legata a quelle che erano la tipica vacanza balneare degli anni 60, mentre invece la scoperta delle piccole città, delle città minori, degli angoli, dei borghi, è qualcosa che si è molto più sviluppato, ad esempio nel mondo francese, nel mondo tedesco, nel mondo anglosassone, che è venuto a scoprire il nostro paese fin dagli inizi del Novecento, anzi dell'Ottocento, e che sì, invece per noi, forse perché da un lato io penso che cioè, cos'è che non facciamo? Guardi, io penso che in primo luogo c'è anche il discorso che essendo italiani diciamo ma lì andare a visitare quella città, andare a visitare quel territorio è vicino a casa, non è tanto lontano, possiamo sempre farlo, e per cui si cerca alla fine di rinviare quello che è la scelta più semplice e la scelta che potrebbe essere più attraente. E d'altro canto è anche vero che la nostra promozione del nostro territorio anche nel nostro paese è fatta in maniera abbastanza dispersiva e poco organizzata e omogenea per poter anche raccogliere e avere quelle informazioni che ci vengono dai resoconti delle vacanze degli stranieri, come stava dicendo lei. Grazie a Giorgio Palmucci. C'è una città, si chiama Lecco, è stata dimenticata dalla guida turistica più famosa, cioè c'è stata una gaffe quest'anno dell'edizione inglese della Lonely Planet, E si è dimenticato semplicemente l'eco non esiste. Peccato che proprio a questa l'eco arrivano circa 180.000 viaggiatori da fuori Italia ogni anno. E qualcuno l'ha segnalato, ma ancora una volta andare lì a visitare la chiesa, il convento di Fra Cristoforo, la chiesa di Don Abbondio, il palazzotto di Don Rodrigo, ci pensano di più gli stranieri che noi. Perché? Philip D'Averio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Beh, perché noi siamo andati tutti uniti a votare un referendum per abolire il Ministero del Turismo. Cioè siamo l'unico paese al mondo che ha compiuto un gesto così curioso, no? Certo. Dire, siamo una, 1905 eravamo il primo paese turistico del mondo, 2005 eravamo ormai il sesto paese turistico del mondo. E oggi? E nel frattempo siamo andati ad abolire il ministero perché non sarebbe mica niente. D'altronde è risaputo che viviamo di petrolio, per cui esatto, è ovvio che il turismo in Italia, insomma, il nostro paese che produce petrolio. Allora, poi intanto ogni tanto poi c'è un altro ministro che dice è il petrolio, una roba confusa. Gli italiani sono confusi, bisogna dire la verità, hanno troppi problemi, non ci capisco più niente. Hanno perso un po' il nord, ecco, un paese sbussolato e che tra l'altro non riesce bene a capire e poi non riesce a conoscersi. Adesso però non mettiamoci neanche un po' troppo ad esagerare, perché non è che i francesi abbiano un grande turismo interno, eh? Noi un po' ci crediamo, non è mica tanto vero. Non è che l'offerta del turismo interno delle campagne infinite della Francia sia una cosa formidabile e la garanzia dell'albergo di alta qualità, ci sia appena uno arriva in Borgogna, se vi dice la città di Bourges si mette a piangere. Forse l'unica parte veramente turistica d'Europa è quella germanizzata. Ed è curioso perché dal nostro Tirolo, ciò che sarebbe l'altra parte, fino alla Germania profonda, passando anche un po' nell'est della Germania, pensate che siamo disperati, non c'era neanche l'albergo fino a vent'anni fa, prima della riunificazione, era delle Stamberghe. Quello che ci ha colpito però, Fili D'Averio, certo, noi piace dipingerci sempre come i più asini, i peggiori, e ha fatto bene lei a dirci, non è che i francesi, tanto per citarne uno, facciano meglio. Ci ha colpito, per esempio, dai racconti dei corrispondenti stranieri, anche su queste frequenze, ogni giorno, scoprire borghi, musei, iniziative, situazioni, anche se di semplice simpatia umana, a cui noi italiani in genere non pensiamo, a meno che viviamo all'estero. Quando rientriamo all'estero ci piace tutto, anche il tabaccaio di paese diventa una cosa suggestiva. Ma ci ha fatto sorridere anche questo atteggiamento, le racconto, di persone che ci dicono, quando chiediamo dove andrete in vacanza, perché si dà per scontato ancora in Italia che in vacanza si vada, e ci dicono un po' sulle Dolomiti, un po' al mare in Liguria, perché poi la vacanza vera la faremo, quasi a giustificarsi che non si varchi il confine. Allora non è una vacanza vera, perché siamo provinciali? Sì, perché non abbiamo una fierezza dell'identità, e anche questo è un po' colpa del nostro sistema, cioè la fierezza di identità dei tedeschi è molto maggiore della nostra. Poi vengono in vacanza in Italia, ma non importa, ma la loro autocoscienza è più elevata. D'altronde proprio quali sono compiti che spettano alle enti pubblici? Che noi abbiamo i nostri ministeri in questi argomenti non se ne sono mai occupati. Il ministro della cultura mica si occupa dell'identità nazionale, non ne frega niente, si occupa di mantenere degli stipendi dei direttori, poveretti, troppo bassi. Adesso non mi spezzi il cuore, è davvero che dobbiamo arrivare alla fine della trasmissione. Sì. Sono le 9. Beh, un po' di lamento ci vuole ogni tanto, perché sì. Sennò qui ci sempre esaltati e poi va male. Cioè, siamo esaltati, ha ragione, ha ragione. Ci manca anche... Ma facciamo un ragionamento serio, butto l'ultima cosa. Sì. Tasso di occupazione di alberghi in Sicilia, dove il tempo è bello 9 mesi all'anno. Tasso di occupazione media, 51 giorni. E di questo non si occupa, come giustamente lei sottolinea, il ministero. Abbiamo proprio qualcuno che ci sta chiamando da una provincia bellissima, dalla provincia di Agrigento, e tra poco lo faremo parlare. Prima però, linea alla regia, il numero di telefono, vi ricordo, 800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Che provocatore che siete, gli autori di questa trasmissione sono terribili. Domenica ti porterò sul lago, questo è Fabio Concato, grazie a Luca Cremonese e Barbara Bianchi per averlo proposto, perché sono rimasti amareggiati quando hanno visto che la città dimenticata dalla guida turistica più famosa, Lecco, non aveva causato nessuna lacrima tra gli italiani, e invece a muoversi erano stati ancora una volta gli stranieri. Ma è proprio così. Roberto Brivio è il sindaco, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie per il suo intervento. Ma cos'è successo? Ma niente, che in questa guida appunto molto famosa, io penso, non so se è una dimenticanza oppure uno sguardo diverso dei curatori, perché come mi diceva il rappresentante in Italia della casa editrice l'altro giorno nel corso di un approfondimento, di un colloquio che ho avuto, può anche darsi che sia una scelta, lo dico ovviamente con un po' di rammarico e con tanti punti interrogativi, cioè i curatori che vedono con occhi un po' diversi e che hanno dato priorità a elementi sicuramente importanti che lungo il lago ci sono, ma assolutamente molto più modesti di quello che il capoluogo può in qualche modo rappresentare. Lecco è chiaro che si ritrova all'interno di un lago che è conosciuto nel mondo come Lago di Como, e questo non ci fa nessuna paura dal punto di vista così di rivendicazioni di tipo campanilistico, perché sappiamo bene che in una semplificazione della comunicazione complessiva chiamarsi in quel modo è anche per noi un modo per farsi conoscere, però poi più ci si avvicina delle peculiarità più ovviamente siamo amareggiati che una serie di opportunità che proprio la città e i suoi dintorni hanno, qualcuno l'ha già richiamato poco fa prima dell'interruzione pubblicitaria anche lei, siano stati omessi, tanto più che sono visitati, come avete ricordato, oserei dire in percentuale molto più alta dai turisti stranieri. 70% lei ha detto, esatto. 70% di stranieri su tutti i 180.000. Precisare questo concetto significa che si fermano almeno una notte a soggiornare. Ah, quindi sarebbero ancora di più. Aggiungiamo, chiamiamoli così, i visitatori, i mordi e fuggi della giornata che vengono da un raggio, come dire, dove è possibile ovviamente partire al mattino e rientrare alla sera, le cifre sono assolutamente importanti. Le do un solo dato: la Villa Manzoni, dove lo scrittore ha soggiornato negli anni in cui ha prodotto il romanzo più famoso, Promessi Sposi, è visitata solo da studenti per oltre 30.000 presenze all'anno, un numero eclatante. Non a tutte queste presenze corrispondono, sia ben chiaro, un pernottamento, quindi un valore aggiunto magari più complessivo in un'ottica di economia turistica, certamente però arrecano un beneficio indubbio sotto il profilo almeno quindi approfitti culturale. Per far conoscere anche a chi la sta ascoltando non da molto lontano, ad esempio dalla Lombardia, non ha mai pensato di venire proprio in città a Lecco. Quali sono gli itinerari manzoniani o altre mete che vale la pena di visitare da voi? Un filone culturale, come diceva lei, sono gli itinerari diciamo manzoniani, quindi la possibilità di poter vedere alcuni e pochi luoghi che sono rimasti come tempi in cui il romanzo è stato collocato, ma certamente di rivivere l'atmosfera e le situazioni, quindi da questo punto di vista il convento di Pescarenico, l'addio ai monti sempre a Pescarenico, la Villa Manzoni, il castello dell'innominato a Somasca, che è a pochissime distanza da Lecco, la casa di Lucia, un insieme però di atmosfere complessive. Ricordo peraltro che il comune è anche dotato di due poli museali, uno storico appunto presso Villa Manzoni e Belgioioso, e uno nuovissimo in riva al lago, il Palazzo delle Paure, riammodernato e da un anno e mezzo ancora in funzione. C'è poi un secondo filone che è il turismo di montagna, qui si trovano percorsi adatti a qualsiasi situazione, la famiglia che vuole fare due passi e camminare nel verde e fermarsi a mangiare in un rifugio, oppure con una funivia andare ai piani d'Erna, trovarsi sul bancone mozzafiato e dalla città si vedono le catene montuose anche come dire del Monte Rosa, del Monte Bianco, se le giornate lo consentono, oltre che vedere una pianura padana nella sua bellezza. Ottimo. E anche però lì spazi ad aria aperta lungo il lago, abbiamo piste ciclabili che ci ha convinto, sindaco, ci verremo. Ma l'albergo che costa meno, quanto costa per una notte? Beh, siamo sui 40 euro, però diciamo che tutti sono a persona? Di qualità, a persona, ma tutti sono di qualità. Perché ci segnalano una rete di bed and breakfast, di rifugi, di campeggi. Quindi a prezzi anche inferiori, no? Perché ci segnalano il problema del costo del viaggiare. Per cui da noi questo, nel nuovo piano regolatore che è appena stato approvato, noi promuoviamo l'implementazione dei posti letto proprio per schierare anche maggiore attrattività di tipo turistico, dobbiamo guadagnare punti e pensiamo che questo serva anche magari a calmierare un po' dal punto di vista dei prezzi. Quanto costa una pizza da voi? Perché in Liguria costa 10 euro e la spiaggia 35, ci no, scrive si Paolo. Si trova molto meno e anche qui è molto buona perché c'è una tradizione storica, diciamo così, ecco, dagli anni 60, dai primi diciamo immigrazioni che hanno portato non solo ricerca di lavoro che veniva dato dalle grandi fabbriche che hanno costituito la tradizione manifatturiera della città, ma anche tanti piccoli imprenditori che già allora con le pizze e col pesce di mare hanno portato una significativa. Ascolta, guardi, per gli itinerari manzoniani va bene, ma adesso ci mettiamo a pubblicizzare l'Ecco per la pizza, sindaco. No, quello no, però me l'ha chiesto. Sì, no, costa, gli ho chiesto il prezzo, ma sono sicura che siano buone, però di lago, gli ho chiesto il prezzo. Di quello di mare, ma altrettanto buono e fa più bene. Bene, ottimo. Non avete allora nemmeno il problema, immagino, dell'eccesso di costi di lettini, ci segnalano cifre spropositate per i lettini, sempre in Liguria. Sì, abbiamo molto poche, perché di spiagge, avendo una conformazione di un certo tipo, sono molto poche. Su questo dobbiamo sicuramente, almeno come capoluogo, migliorare. Nei paesi invece della riviera, diciamo che sale verso Colico, è molto più presente una logica anche di spiaggia attrezzata, di spiaggia organizzata, comunque molto belle. L'Ecco dimenticata dalla guida turistica più famosa, Lonely Planet, che continua a essere in vendita nelle librerie di L'Ecco, avete provveduto a ritirarla? No, assolutamente, anzi direi che l'esclusione ci sta facendo una pubblicità, non sempre le cose. Se no non l'avremmo chiamata nemmeno oggi, quindi ha ragione, esatto. A vedere il bicchiere mezzo pieno. Grazie a Roberto Brivio, sindaco di L'Ecco. Avete sentito anche di questa gaffa della guida inglese. Intanto un po' dei vostri messaggi, 349-238-6666. Iniziamo a fare due cose per essere competitivi con l'estero. In agosto autostrade e coperto al ristorante gratis, questo ci segnala un ascoltatore. È molto sentito quello del prezzo, sembra sia rilevante rispetto al non voler conoscere il proprio territorio. Ci scrive Anna da Venezia, che a piedi ha attraversato l'Umbria da San Sepolcro a Poggio Bustone. Ho visto borghi e paesaggi da urlo, e ci segnala dunque questo itinerario. E c'è anche chi abita a Genova e ultimamente ha visitato il Cuneese e il Parmense. È rimasta molto colpita Martina. Attenzione, facendo a caso un numero di telefono, non so, della provincia di Ascoli Piceno, c'è la possibilità di trovare qualcuno che ha fatto un viaggio fino a Urbino, o si tende a ignorare ciò che è più vicino? Questo è quanto ci stiamo chiedendo oggi. Un pochino siamo snob, un po' siamo provinciali, un po' non ci va di vedere mete vicine sborsando denaro che invece potremmo utilizzare per capitali straniere, per esempio. Perché Fili D'Averio, le chiedo un'altra volta, moltissimi degli italiani sono stati a Londra, a New York, solo per dire due banalità, le prime due a caso, eppure non hanno sentito parlare di Londra e di New York nella lezione di storia dell'arte, visto che qualcuno ci ha detto è a causa di questo che non conosciamo il territorio, perché non studiamo abbastanza la storia dell'arte. Lei è d'accordo? Ma no, è ovvio che tutti sentono parlare di Londra e di New York e tutti siamo alla ricerca dei miti e per fortuna viaggiamo fuori, se no oltre ad essere un po' rimbambiti saremo anche totalmente provinciali. O sciovinisti, sì. Sì, sono contenti che i ragazzi vadano a Berlino, poi che ci capiscono qualcosa meno, non è mica grave, ci capiranno se sono capaci. Io non penso che vada messo in opposizione una cosa all'altra. Lo stimolo al muoversi, al viaggio in generale. Il viaggio nel generale vuol dire dentro o fuori, come quando ero bambino, insomma, tu preferisci la Francia o l'Italia? E io dico, non lo so, sono in grado di dare una risposta demente questa qua, preferisco la Francia o l'Italia. Invece la questione vera è, spingiamoli a vedere, ma voi vi ricordate quella volta c'era anche Intervallo sulla televisione, che si vedeva Ascoli Piceno, adesso non c'è neanche più quello, sono delle robe in cui di viaggio sui mezzi, sui grandi mezzi di viaggio o si deve vedere dei pezzi d'India dove si vede solo della gente in bicicletta, ma non spiega niente sull'India, oppure si vede delle robe in Italia, ma in Italia la descrizione di italianità non c'è più. Cioè, sì, delle sagre paesane con delle mamme che fanno dei tortellini, ma potrebbero essere in una parte del paese come nell'altra. Cioè, l'Italia è solo vista come folklore un po' analfabeta, cioè mamme un po' ciccione, giovani che non sanno cosa fare, e pentoloni e poi streghe e poi ogni tanto poi il fuoco invernale. Cioè, la documentazione sul paese non c'è, non so, magari io non ho mai visto la televisione, ditemi voi. Filippo Daverio, rimanga con noi, grazie per queste domande, che giriamo direttamente a voi, 800 24 00 24 e andiamo nella provincia d'Agrigento dove ci sta aspettando un ascoltatore. Buongiorno, pronto? Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Lei si chiama? Sono Vito e ho chiamato principalmente perché volevo dissentire da un commento che ha fatto Palmozzi, sì, su ciò che riguardava le spese degli italiani che risentono della crisi e quindi hanno avuto una deportazione del loro potere d'acquisto per la crisi. Dissentisco proprio per questo, perché gli italiani hanno avuto una perdita di potere d'acquisto non da 4-5 anni, da 16-18 anni circa. Quindi, poi dissentisco su un altro punto, che è quello che si riferiva agli italiani che non girano le immediate vicinanze della zona di residenza, magari perché pensano di poterlo fare nel prima o poi lo faremo, domani. È stato detto, no? Quindi riserviamo il tempo per mete più lontane, prima o poi andremo da Brescia a vedere Mantova o da Roma a vedere Viterbo. Ma non è così, perché io parlo per la mia zona, certo, dica. Largo dappertutto, ma incontro spessissimo persone che so della provincia di Agrigento e ci incontriamo che so a Caltagirone, Caltanissetta, Siracusa, Catania o in altre località, a Messina, giriamo. Chiaro che il potere d'acquisto perso non ci consente più di fare delle spese più, diciamo, più delle spese maggiori con soggiorni più lunghi nelle altre città d'Italia e d'Europa. Ma grazie. Non è come dice il presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Grazie per aver dissentito pubblicamente e averci fatto sapere che invece, secondo Vito da Agrigento, si gira e si gira parecchio e soprattutto quando si abita sul mare si va nell'entroterra. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. È il 6% del PIL, il 10% del PIL, secondo alcune altre stime, insomma stiamo parlando del valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo, 83 miliardi di euro, consumi turistici interni che aumentano soprattutto per le spese effettuate in Italia da turisti stranieri, questo dicono i numeri. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, una manciata di minuti per capire quanto facciamo noi italiani in in Italia in termini di turismo, e a sentire i vostri SMS non è altro che un preparare la valigia per andare nella città limitrofa, siamo sempre in giro, non è vero che non conosciamo il nostro paese. Attenzione però, c'è qualcuno che segnala: viaggiare per me è molto un modo per rigenerare la mente, dice Luigi, e per farlo ho bisogno di cambiare lingua, ho bisogno di immergermi in altre culture, per questo vado oltre confine. E ci spiega semplicemente, così come ha segnalato Filippo D'Averio, la necessità di incontro, di diversità di cose, emozioni, persone e naturalmente anche opere d'arte e mete turistiche che non siano quelle nostrane. Non c'è niente di male, non è un processo alla nostra italianità, ma semplicemente registriamo questa propensione molto accentuata in Italia a viaggiare sì fuori e poco all'interno del territorio. Sarà così? Lo chiediamo anche a qualcuno che fa una professione storica, ma molto limitata, nel senso che per esempio nella sua professione non ci sono donne, anzi ce n'è una sola attualmente. È una carriera che può iniziare a 18 anni, può durare anche fino a 70. Sto parlando della carriera del gondoliere. Buongiorno ad Aldo Reato. Pronto? Buongiorno a voi. Sì, buongiorno a tutti quanti. Lei è il presidente dei bancali, cioè la rappresentanza sindacale dei gondolieri. Quanti siete a Venezia? 433. E siete sempre 433 o è una categoria? No, è una categoria che è in espansione. 10 anni fa eravamo 380. Man mano si inserisce sempre qualcuno, diciamo. Quindi andate in controtendenza rispetto alla crisi? Cioè, si parla di erosione dei consumi in termini turistici e di spese per viaggi, i gondolieri aumentano da 380 a 433. In 10 anni abbiamo dato posti di lavoro. Da 10 anni a sta parte abbiamo dato 40 posti di lavoro, 50, scusami. Come si diventa gondoliere? C'è una scuola ben precisa che dura non meno di un anno, da un anno a 2 anni, in cui si fa un po' di storia dell'arte, un po' di lingue e ovviamente saper portare la gondola, che è importantissima. Venezia è ancora in testa per numero di presenze, secondo il dati Istat, nella classifica delle mete italiane, ma quelli che salgono sulle vostre gondole, lei dovesse fare una percentuale così approssimativa, quanti italiani ci sono in percentuale che utilizzano la gondola rispetto agli stranieri? Fortunatamente ce ne sono tantissimi italiani e questo ci fa piacere, anche perché sai, c'è lo straniero che viene in gondola, c'è quello che appunto viene per capire, per sentire la storia di Venezia, la storia dei palazzi, come è nata Venezia, ma tantissimi vengono in gondola solo perché dicono vado a Venezia, devo andare in gondola e fine. Invece gli italiani sono i più interessati proprio a chiedere, quindi a chiedere la storia della gondola, la tradizione, come si costruisce la gondola stessa, i palazzi, e questo si fa molto piacere. Cioè lei dice lo straniero viene, si fa la foto, la posta su Facebook e ha finito. Praticamente sì. Mentre l'italiano ha anche una curiosità storica più accesa, più... Esatto. Vi dà più soddisfazione mentre remate? Vi dà più soddisfazione. Questo non vale per tutti gli stranieri, però c'è una parte che fa anche questo che vi ho detto. E quindi mentre remate voi raccontate, date... Certo, degli aneddoti, le storie delle regate, sai, il nostro è un lavoro che si tramanda di famiglia in famiglia, ci sono 4-5 generazioni addirittura di gondolieri, c'è gente che i loro antenati fin dal 700 facevano i gondolieri, quindi c'è una tradizione vera e propria, non solo per il tipo di lavoro ma anche per quello che usiamo, non per niente. Le gondole sono rigorosamente sempre in legno, 20 tipi di legno ben precisi, e per la costruzione di una gondola i nostri scolarioli ci impiegano circa un anno e mezzo, due. E la pioggia quest'anno, questo maltempo che avrebbe messo KO il turismo, ha inciso molto sulla vostra attività secondo lei? Purtroppo quest'anno diciamo di sì, perché su un mese 20 giorni di pioggia, quindi... E questo vuol dire anche il fenomeno dell'alta marea, i ponti sono bassi e praticamente anche per noi incisa, ovviamente, come dappertutto. È chiaro. Però sono cose che succedono, non dobbiamo piangerci su e dobbiamo andare avanti. Ecco, questo sì. Una voce d'ottimismo e positiva da Venezia, l'avete sentito il presidente dei gondolieri. Con la pioggia, però, c'è anche chi ha pensato bene ad attrezzarsi, invece di denunciare i meteorologi, come hanno fatto alcuni, dall'Abruzzo è arrivata una proposta. Ma perché non incentiviamo i turisti, visto che in spiaggia non ci possono stare, ad andare nell'entroterra? E come lo facciamo? Cristiano Tomei, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La proposta è venuta da lei, una sua idea? Sì, una mia idea che ho, come dire, un po' condiviso con i miei associati, perché c'è questa esigenza appunto nelle giornate di maltempo di poter dare un'alternativa alle persone che hanno acquistato una vacanza al mare e purtroppo non possono come dire, beneficiare del sole. Allora abbiamo proposto di creare una sinergia con l'interno e incentivare questa possibilità abbassando a un prezzo simbolico di un euro il biglietto dei mezzi delle principali aziende di trasporto pubblico. E sa che lei con questa iniziativa ha già risposto a ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666 che dicono: noi non viaggiamo, io non viaggio da sola, ho due bambini, il consorte in quattro costa tutto, anche il biglietto del museo, dell'autobus, andare al ristorante, mangiare la pizza. Prima facevamo un riferimento così a uno dei cibi, no, più consumati mentre si è in vacanza. E lei ha pensato di risolverlo mettendo questo prezzo simbolico, un euro, e con un euro quanto si può circolare in Abruzzo? Noi proponiamo di circolare sempre per i turisti, perché è un periodo in cui fisiologicamente le aziende pubbliche di trasporto non hanno tanti passeggeri, le scuole sono chiuse, il pendolarismo scende, e significa anche in qualche maniera incentivare la cultura per usare il mezzo pubblico. Sì, ma un euro e si può andare da? Dappertutto. Da Pescara a Chieti un euro. Questa è un'ottima proposta. Adesso non vorrei però che per approvarla passasse non solo la stagione estiva, ma magari anche il Natale. Ci diceva questa mattina una corrispondente austriaca. Quando è che decidete? Quanto ci impiegate? Cioè, lei l'ha proposto. Siamo al 31 luglio. Quando è che si pronuncia? Noi proponiamo un periodo 9-24 agosto. Abbiamo scritto direttamente al governatore regionale dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che è una persona che sappiamo sensibile a questa iniziativa, e poi abbiamo fatto una proposta operativa. Poche chiacchiere, un fatto, perché questa cosa, se si fa, conta molto più di tante campagne pubblicitarie. Grazie. Grazie. In effetti sì, no, l'abbiamo trovata molto interessante anche noi, e chissà, potrebbe suscitare un effetto emulazione. Giuliano, pronto? Buongiorno, lei che è abruzzese, da Pescara, sì, ci chiama. Infatti mi velocemente sente, perché siamo in chiusura. Sì, sì, Giuliano, niente, dica la sua. Come dire, un plauso a questa iniziativa, ma il problema è sempre più complesso, perché in Abruzzo credo che manchi una collegialità tra gli operatori del settore. Se tu fai pagare un euro, ma non dici a chi va in vacanza a Pineto che a 5 minuti c'è Atri, che è un borgo medievale bellissimo, questo gira per l'Abruzzo senza sapere dove andare. Lo troveremo. Sì, sì, che chiaramente l'accentramento delle informazioni indipendenti che dicano dove andare. Perché la cultura dell'ospitalità credo che sia un fatto mancante in Italia, o perlomeno che non ci sia più. Io volevo fare solo un esempio, ma non perché sono un esterofilo, io sono innamorato dell'Italia e vado solo in Italia. Però siccome mi piace Mozart, avevo pensato di andare a Salisburgo e ho inviato una semplice mail a un sito istituzionale del salisburghese. Le hanno risposto subito, immagino. No, ma non solamente risposto, mi hanno inviato dei faldoni, delle buste con tanto materiale illustrativo almeno 3 o 4 volte. Grazie. In Italia questo sarebbe ben pensabile. Grazie Giuliano, ha citato un esempio molto importante, e grazie per averci seguito. A tutti i nostri ospiti si conclude questa puntata di Spunti di Vista. Ritorneremo insieme in diretta dalle 8:15 di domani mattina. Un saluto e buona giornata a Carmelo Lauricella in regia, agli autori della trasmissione Luca Cremonese, Barbara Bianchi e Anita Panizza. Da Irene Zerbini una magnifica giornata.